Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Cambiano i parametri dell'ISEE, l'indicatore della situazione economica, ricometro riparametrato verso il basso per chi è in affitto. Si ridefinisce la platea di chi ha diritto alle prestazioni e chi no, dice Giovannini. L'esecutivo approva il decreto sulla terra dei fuochi, diventa reato il rogo di rifiuti, le procure avviseranno subito i comuni in caso di notizie di discariche, si va verso una classificazione dei suoli per capire quali sono coltivabili e quali no. L'Italia migliora nei test OCSE PISA sulla scuola, ma resta sotto la media. Il paese non è uno solo, tra l'altro. Nord e Triveneto ai vertici europei per la matematica, sud agli ultimi posti. Legge elettorale, la Corte Costituzionale orientata a dare più tempo ai partiti. Si va verso un rinvio della sentenza sul Porcellum a gennaio. L'avvocato dei ricorrenti dice con questa legge i cittadini trattati come mandrie da voto. Il Parlamento ucraino vota oggi la fiducia al governo, mentre i manifestanti che vogliono l'accordo con l'Unione Europea restano in piazza e presidiano il palazzo del governo. Il primo ministro si scusa per la repressione. Indagine su Total Erg e perquisizioni a Genova, Milano e Roma. Si sospetta un'evasione da 900 milioni di euro. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, se volete commentare potete farlo via sms al 349-238-6666 oppure scrivermi su Twitter se volete, Simone Spezia. Parliamo in apertura dunque di politica economica e dei nuovi parametri che riguardano l'ISEE, l'indicatore della situazione economica. Saluto innanzitutto Gianni Trovati, collega del Sole 24 Ore che spesso ci accompagna in queste cose, in studio con noi. Gianni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, iniziamo a sentire qualcosa però dalla conferenza stampa di pochi minuti fa ed è la voce del ministro del lavoro Giovannini. Adesso l'ISEE considererà tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti, e riuscirà ad avere un'indicazione molto più precisa della capacità reddituale e patrimoniale delle famiglie, dando un peso più adeguato alla componente patrimoniale. D'altra parte però la nuova scala consente di considerare in modo più forte le caratteristiche dei nuclei con carichi gravosi, per esempio le famiglie con tre o più figli o quelle con persone con diversi gradi di disabilità. Così Giovannini. Dunque Gianni Trovati, allora quando cambiano parametri di questo tipo, quello che teme l'italiano, anche giustamente, è sempre che poi insomma ne rimanga colpito in qualche modo. Che cosa puoi dirci? Allora, beh, naturalmente la storia insegna che questi sospetti spesso si traducono in realtà, però in questo caso siamo di fronte a un dato un po' più articolato. Allora, tre cose chiare. In generale, aumenta il peso del patrimonio. Anche qui c'è un effetto IMU, purtroppo ci tocca parlare di IMU anche nell'ISEE, perché per l'IMU considera il valore della casa il 60% in più rispetto a quello dell'ICE, e questo si riflette nell'ISEE, poi viene abbattuto di un terzo, però diciamo la casa di proprietà pesa di più. Lo diceva Giovannini, entrano nel calcolo tutte le tipologie di reddito per fare una fotografia completa, il più possibile completa, del benessere delle famiglie, del livello di benessere delle famiglie. Per chi però è in affitto ci sono dei nuovi sconti, soprattutto per chi ha il canone registrato, e quindi c'è una sorta di contrasto di interessi, perché se tu chiedi l'affitto registrato hai un ISEE più basso rispetto a quando hai l'affitto in nero, e questo ti aiuta all'accesso ai servizi. Quindi questo per quanto riguarda i calcoli. Seconda questione, flessibilità. Le regioni e i comuni devono riparametrare le loro soglie di accesso ai servizi tenendo conto del nuovo ISEE. Quindi il fatto che tu con il nuovo ISEE abbia magari un valore più alto rispetto al vecchio può non determinare cambiamenti se il comune ne tiene conto, e dipende, può fare scelte di politica economica. Te la metto molto brutalmente, sì. Gianni, riusciremo ad evitare che l'uomo che gira in Ferrari non faccia pagare le tasse universitarie alla figlia? Perché questo è il tema. E questo è il terzo filone, appunto, quello dei controlli. Finora l'ISEE era lasciato a una autodichiarazione, da cui emergeva per esempio che oltre l'80% delle famiglie italiane non hanno un conto corrente, mentre i dati della Banca d'Italia dicono che il 91% ce l'ha. c'è un sistema di controlli telematici incrociati con l'INPS, con le banche dati INPS, che i dati ce li ha, e quindi dovrebbero, come dire, lasciare superare una lunga fase di, come possiamo chiamarlo, dilettantismo nella gestione dell'ISEE, nel senso che veniva lasciato tutto all'autodichiarazione. Ogni tanto si facevano controlli a campione, per esempio nelle università, e si scopriva che naturalmente, diciamo, il fascino dell'autodichiarazione aveva fatto un po' prendere la mano all'autodichiarante, che dimostrava una situazione molto diversa, molto più povera, diciamo, di quella reale. Questo non dovrebbe più succedere grazie ai controlli telematici incrociati con le banche dati dell'INPS. Grazie Gianni Trovati, trovate molti dettagli già sul Sole 24 Ore di oggi, posso solo immaginare quanti ne troverete su quello di domani. Il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il decreto sulla terra dei fuochi. Andrea Viale ci racconta che cosa c'è dentro. Andrea. Sì, buongiorno Simone. Il Presidente del Consiglio Letta ha parlato di un provvedimento che servirà a recuperare anni di ritardo, annunciando il via libera appunto a questo decreto sulla terra dei fuochi, un decreto che prevede una serie di interventi per risolvere l'emergenza che si è determinata in quelle aree, lo ricordiamo soprattutto in provincia di Caserta e Napoli, che per anni sono state inquinate con sversamenti illegali di rifiuti, con roghi di rifiuti anche, ma sentiamo le parole di Letta. Oggi per la prima volta le istituzioni nazionali affrontano il tema della terra dei fuochi. L'emergenza terra dei fuochi da tutti i punti di vista, i punti di vista ambientale, il punto di vista sanitario, il punto di vista del territorio, il punto di vista del rilancio anche economico del territorio e delle produzioni di quel territorio. Naturalmente il tema principale è la salute delle persone. Interventi dunque possiamo dire a 360 gradi, e tra le varie misure il decreto prevede ad esempio 150 giorni per identificare, perimetrare, controllare i terreni che poi andranno bonificati, soprattutto per capire quelli che poi potranno ancora essere coltivati, e vengono anche introdotti nuovi reati, ad esempio c'è quello di combustione di rifiuti, un illecito che fino ad oggi veniva punito soltanto con una multa, Simone. Grazie Andrea per questi aggiornamenti, e noi torneremo sulla terra dei fuochi come insomma facciamo in queste settimane. Abbiamo degli approfondimenti che sono in parte qua, in parte sul nostro sito internet. Dunque ci torniamo più tardi, e proprio sul tema dell'agricoltura e sul tema della terra e della verifica dei terreni. Veniamo adesso alla legge elettorale, perché oggi c'è stata e c'è l'udienza pubblica della Consulta sulla legge elettorale. Si va verso un rinvio, come era anche prevedibile. Elisabetta Fiorito, buongiorno, ciao. Sì, proprio così Simone, ancora un rinvio per il Porcellum, la Corte Costituzionale non si pronuncia e fissa al 14 gennaio la Camera di Consiglio per valutare l'ammissibilità del ricorso contro la costituzionalità dell'attuale legge elettorale. In discussione soprattutto il premio di maggioranza, assegnato a chi prende più voti senza fissare una soglia minima d'accesso, e le liste bloccate, predeterminate dai partiti con l'esclusione del voto di preferenza. Questo insomma è risultato dell'udienza pubblica. Il promotore dell'azione contro il Porcellum, l'avvocato Bozzo, dice che praticamente l'attuale legge elettorale è responsabile di una reiterata lesione del diritto di voto, e l'altro avvocato Tani attacca: con le liste bloccate si regge un Parlamento di curie politiche. Tocca adesso al Parlamento proprio decidere, eventualmente prima della Corte. I renziani chiedono che della riforma della legge elettorale se ne occupi la Camera dopo il flop al Senato. Invece poi parliamo anche della maggioranza, perché Matteo Renzi è all'attacco e che dice che dopo le primarie si deciderà la fiducia al governo. Ricordiamo che ieri è stato deciso al Quirinale che ci sarà un passaggio formale alla Camera e al Senato, fissato poi per l'11 dicembre. Simone. Grazie Elisabetta per questi aggiornamenti. Veniamo ai dati, e ai dati che vengono diffusi ogni anno, i dati OCSE PISA, che riguardano il nostro sistema scolastico e soprattutto la situazione dei nostri studenti, e come sempre in questi casi si evidenzia un divario molto forte tra nord e sud. Sentiamo. Gli studenti quindicenni italiani migliorano, ma le loro competenze in matematica, lettura e scienze restano inferiori alla media dei coetanei negli altri paesi industrializzati. Questa è la sintesi del rapporto PISA-OCSE presentato oggi. L'Italia si posiziona attorno a metà classifica, al 32esimo posto su 65 paesi. In particolare restiamo indietro per quanto riguarda le competenze in matematica. Un ragazzo su 4 non raggiunge le competenze minime, cioè non è in grado di risolvere anche nella vita reale problemi molto semplici. Un dato però questo non omogeneo ancora una volta su tutto il territorio nazionale. In matematica infatti Trentino, Friuli Venezia Giulia e Veneto superano abbondantemente la media OCSE e si piazzano invece a fondo classifica Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna. Anche in scienze gli ultimi anni hanno portato un generale miglioramento nel nostro paese, mentre nella lettura la situazione italiana è rimasta pressoché immutata dal 2000, con l'eccezione ancora una volta di Trentino, Friuli Venezia Giulia, Veneto e della Lombardia, che si attestano nettamente al di sopra della media. Ciò significa che quasi il 20% dei nostri quindicenni riesce a malapena a riconoscere il tema di un semplice testo. Come per il resto dei paesi OCSE, in lettura le ragazze italiane surclassano i ragazzi di quasi 40 punti. L'Italia poi è fra i rari paesi industrializzati che hanno tagliato i fondi alla scuola fra il 2001 e il 2010, ma il miglioramento nella classifica dimostra che non c'è una relazione diretta fra la spesa per studente e la sua performance. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche su questo con la nostra Maria Piera Ceci e con un ospite torneremo tra poco nella seconda parte del programma per tornare a fare un punto su questi dati. Adesso noi invece torniamo a Prato perché si è messa in evidenza in queste ore la responsabilità dello Stato, la carenza di controlli, ma naturalmente c'è tutta una comunità che in parte non ha saputo rappresentare il problema. Sentiamo su questo il commento di Silvia Pieraccini, collega del Sole 24 Ore e autrice tra l'altro dell'Assedio Cinese, che è un libro proprio sul distretto di Prato e su quello che succede in quelle terre. Ci sono voluti morti per riaccendere i riflettori sul caso Prato e sul suo potente distretto cinese dell'abbigliamento a basso costo, cresciuto senza regole a fianco del tradizionale e ancora importante distretto tessile presidiato dagli italiani. Ma se è vero che i riflettori nazionali e internazionali si sono accesi sull'orrore, è anche vero che la civile toscana, simbolo del buon vivere e del bel paesaggio, quell'orrore vorrebbe nasconderlo, insieme con le immagini sconcertanti di questi giorni e le parole inconsuete come schiavitù, violazione dei diritti umani, enclave senza legge. Anche perché nascondere è più facile che combattere. Per contrastare il sistema organizzato di illegalità cinese a Prato occorre rimboccarsi le maniche, mettersi in gioco, denunciare e rinunciare a grandi e piccoli benefici economici e politici che la presenza di 40.000 persone in una città che ne conta 190.000 porta inevitabilmente con sé. Sono gli affitti dei capannoni, la vendita di auto e orologi di lusso per i cinesi arricchiti, la cessione del bar o dell'albergo fatta chiudendo gli occhi sulla provenienza del denaro cinese. Prato oggi chiede legittimamente l'aiuto del governo italiano e del governo cinese per spazzare via un'illegalità radicata e insopportabile, ma istituzioni, politica, magistratura, imprenditori e sindacati di Prato e della Toscana devono prima di tutto volere, uniti e compatti, raggiungere quell'obiettivo. Restiamo sulla cronaca e parliamo delle perquisizioni questa mattina nelle sedi della Total Erga a Roma, Milano e Genova. Si ipotizza una maxi frode fiscale. Ci racconta tutto Monica Ceravolo. Buongiorno Monica. Sì, buongiorno a voi. Le perquisizioni sono scattate stamattina e sono in questo momento in corso sia a Roma che a Milano che a Genova da parte degli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza e che sono alla ricerca di documenti contabili che possono confermare o smentire una presunta frode fiscale enorme, si ipotizza appunto per oltre 900 milioni di euro. Al momento i PM della Procura di Roma Paolo Iello e Mario Palazzi ipotizzano il reato di annotazione di fatture per operazioni inesistenti assenti, una inchiesta che porta fino alle isole Bermuda, dove ha sede una società esistente, pare solo sulla carta, riconducibile alla ERG. Secondo l'ipotesi della procura, la Total ERG avrebbe attraverso questa società alle Bermuda gonfiato i prezzi d'acquisto delle materie prime, così da far lievitare i costi a carico dell'azienda e di conseguenza ridurre i guadagni per poi pagare meno tasse. Da qui l'evasione per 900 milioni, una tesi da dimostrare, ed è per questo, per cercare appunto documenti che diano corpo a queste accuse, che sono scattate le perquisizioni. E per ora è tutto. Grazie Monica Ceravolo. Noi adesso ci spostiamo in Ucraina, dove oggi si vota la fiducia al governo e nel frattempo i manifestanti restano in piazza. Antonella Scott, buongiorno e bentornata, perché in questi giorni sei tu che ci stai dando notizie. Allora, raccontaci cosa succede. Buongiorno, oggi dunque quarto giorno di mobilitazione e l'attenzione è tutta concentrata sul Parlamento, sulla Verkhovna Rada, dove però l'opposizione non è riuscita a far approvare la sfiducia al governo di Viktor Yanukovych. Il premier Azarov è intervenuto in aula sommerso dai fischi, aveva prima del voto invitato i deputati a non volere una seconda rivoluzione arancione, si è anche scusato per il comportamento della polizia contro i dimostranti, ricordate le violenze dei giorni scorsi. Però poi il voto, che è stato un test per l'opposizione, era un test per l'opposizione, che però si è trovata con 40 voti in meno rispetto al quorum richiesto, e contava, sperava sul fatto che alcuni deputati del partito del presidente e del partito delle regioni si erano detti delusi dal retromarcia di Yanukovych nei confronti dell'Europa e quindi sembravano pronti a votare con l'opposizione, ma così non è stato. E ora, senza l'avallo del Parlamento, diventa più difficile immaginare che sbocchi potrà avere la protesta per le strade. Intanto Yanukovych è partito, malgrado la situazione, è partito per la Cina, quasi a dimostrare che tra Russia e Europa c'è qualcun altro a cui si può rivolgere per avere aiuti finanziari. Vedremo se i cinesi saranno d'accordo a sostenerlo. Grazie Antonella Scotta, e vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Prosegue in Thailandia la protesta contro il governo. I manifestanti sono entrati questa mattina nel complesso della sede dell'esecutivo dopo essere stati lasciati entrare senza resistenza dalla polizia su ordine appunto dello stesso governo. Nei giorni scorsi ci sono stati scontri con 5 vittime. La protesta è contro Ingluck Shinawatra, accusata di essere un fantoccio del fratello ed ex premier Thaksin, rovesciato nel 2006 e autoesiliatosi per sfuggire ad una condanna per corruzione. Ingluck che difende il suo diritto di governare in quanto regolarmente eletta nel 2011 grazie ai voti della classe medio-bassa rurale. Adesso ci fermiamo, c'è la viabilità, ci ritroviamo subito dopo e parleremo degli effetti del maltempo, torneremo a Pescara il giorno dopo la vera e propria alluvione e poi ci collegheremo con un sindaco della Sardegna, perché abbiamo deciso di non lasciare sola la Sardegna. Tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Cambiano i parametri per l'ISEE, l'indicatore della situazione economica. Ci saranno benefici per chi è in affitto e soprattutto maggiori controlli. Si ridefinisce in questo modo, dice il ministro Giovannini, la platea di chi ha diritto alle prestazioni e chi no. L'esecutivo ha anche approvato il decreto sulla terra dei fuochi, saranno reato i roghi di rifiuti, le procure avviseranno subito i comuni in caso di notizie di discariche e tra l'altro si va verso una classificazione dei suoli per capire quali sono coltivabili e quali no, su questi temi torneremo tra poco. Così come più avanti nel corso di Effetto Giorno torneremo sui test OCSE PISA sulla scuola, dove l'Italia migliora ma resta ampiamente sotto la media, trainata a ribasso tra l'altro dal sud, perché Nord e Triveneto sono ai vertici europei per la matematica, il Sud Italia è agli ultimi posti. Legge elettorale, c'è la Corte Costituzionale che è orientata a dare più tempo ai partiti. Si va verso un rinvio della sentenza sul Porcellum, mentre l'avvocato dei ricorrenti dice che con questa legge i cittadini sono trattati come mandri al voto. Il Parlamento ucraino ha confermato oggi la fiducia al governo, lo avete sentito poco fa, mentre i manifestanti che vogliono l'accordo con l'Unione Europea restano in piazza e presidiano il palazzo. Il primo ministro intanto si scusa per la repressione. E adesso sentiamo il giorno dopo l'alluvione a Pescara che cosa succede e come è messa la città. È stato soprattutto il fiume a far paura. Il Pescara ha rotto gli argini con violenza. L'acqua accumulata a valle si è precipitata verso il mare, creando uno scenario con pochi precedenti nel capoluogo abruzzese. Stanotte è stata brutta, parecchio. Però ha retto bene, diciamo. Che cosa avete visto stanotte? Barche che uscivano, hanno rotto gli ormeggi e parecchi tronchi di albero. Qualcuno ha perso qualcosa, però insomma, cioè i tronchi e qualche barchetta che il fiume si è portato appresso, praticamente andava a sbattere contro delle barche, quindi qualche danno l'ha fatto. Nella tarda serata di ieri diverse abitazioni vicine al corso d'acqua sono state evacuate e molte persone hanno dovuto lasciare la propria casa. Il vice sindaco di Pescara, Berardo Fiorilli. 250 persone circa sfollate tra le varie situazioni di rischio, ma diciamo un'evacuazione preventiva e precauzionale che per fortuna non ha registrato danni particolari. Sicuramente la città è stata messa in ginocchio, come tutta la regione e la costa adriatica. La situazione sta tornando lentamente alla normalità. Alcuni quartieri della zona sud di Pescara sono ancora senza luce e acqua calda. Le scuole sono rimaste chiuse. Da questa mattina però le condizioni meteo favorevoli stanno facilitando le operazioni di ripristino nelle zone più colpite. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pescara. E adesso noi continuiamo a parlare di alluvione, di maltempo, e vogliamo, perché abbiamo deciso di non lasciare sola la Sardegna dopo quello che è successo due settimane fa, e cercheremo di collegarci quando potremo, quando ce ne sarà la possibilità, naturalmente, magari non potrà venire tutti i giorni, però ci siamo, con uno dei sindaci dei comuni colpiti. Oggi è il sindaco di Dorgali, Angelo Carta, buongiorno. Buongiorno. A Dorgali, tra l'altro, è morto un agente, la storia la ricorderete, ve l'abbiamo raccontata, perché è franato, è crollato un ponte, si trovava su un fuoristrada, altri suoi colleghi sono rimasti feriti, un agente della polizia. Qual è la situazione oggi da voi, sindaco? Oggi siamo ancora all'unico comune della Sardegna senza acqua nei rubinetti. Siamo ancora isolati perché la condotta è stata distrutta dalla violenza dell'acqua e ancora non è stata ripristinata. Quindi dal 18 novembre stiamo approvvigionando le famiglie con le cisterne dei vigili del fuoco, della protezione civile, con le autobotti. E non c'è, non so come dire, non è intervenuto nessuno? Beh no, la protezione civile è intervenuta, abbiamo il centro di coordinamento dei soccorsi della prefettura con il quale siamo sempre rimasti in contatto. I vigili del fuoco che hanno sempre messo a disposizione le loro cisterne. Noi abbiamo adesso quasi fissi a Dorgali due cisterne di vigili del fuoco da 25.000 litri, due dell'ente foreste da 7.000 e diversi altri moduli da 500 litri che viaggiano nei veicoli e nelle strade. No, ma intendo, sindaco, mi scusi, intendo intervenuto per le riparazioni dell'acquedotto. No, allora, le riparazioni dell'acquedotto sono nelle mani di una società disastrata che si chiama Abbanoa, che è un'invenzione nel quale si è fatto l'ambito unico e gestisce da Cagliari tutti gli interventi. Tenga presente che dal 18 di novembre la condotta non è stata ancora riparata. Siamo a livello delle Filippine o di terzo mondo. Sindaco, e mi diceva siete anche senza elettricità, ho capito bene? Allora, i tralicci di elettricità ne è caduto uno e l'Enel è intervenuta anche di notte. L'Enel con la privatizzazione ha dimostrato un'efficienza che l'ente pubblico, ahimè, o le città pubbliche, ahimè, non riescono a dimostrare. Adesso ci sarà naturalmente da ricostruire e per ricostruire, sindaco, ci vogliono soldi. Abbiamo sentito dei suoi colleghi nei giorni scorsi molto critici sul fatto che non si sia ancora intervenuti dal lato della possibilità del patto di sforare, dal patto di stabilità, no? Per poter impiegare il denaro che alcuni comuni hanno effettivamente in cassa e che in questo momento non possono utilizzare perché vincolati. Lei come la vede da questo punto di vista? Io la vedo come poteva vederlo un ebreo chiuso nei campi di concentramento con i capoteveschi. Noi abbiamo la Germania che ci obbliga a non spendere i soldi. Se questo le sembra una cosa da paese civile con la schiena dritta nel 2013, me lo dica lei. A me sembra veramente una forma di schiavitù moderna, perché dire che io non posso spendere i soldi neanche per ripristinare una strada che serve per non tenere isolate delle aziende che hanno subito dei danni, questo a me sembra un segno di inciviltà totale. L'altro giorno lei ha parlato degli ayatollah del rigore. Ecco, io credo che definire ayatollah sia riduttivo. Sono il capo del rigore, questi qua. E che cosa vuol fare? Ha deciso di sforarlo comunque il patto di stabilità? Guarda, io credo che dovremmo deciderci a sforarlo e non preoccuparci delle conseguenze, perché tanto peggio di così non ci potrà ridurre. E quindi lo farà? Assolutamente sì. Sforerà. Senza dubbio, cioè proprio non mi preoccupo minimamente di quelle saranno le conseguenze. Noi sforeremo il patto di stabilità perché non lasceremo le aziende isolate, perché la Merkel o chiunque altro mi dice che non posso spendere sindaco, i soldi in casa. Sindaco, ma non ci penso neanche. Sindaco, voi chi? Cioè ci sono altri suoi colleghi che ha già sentito e che sono d'accordo? Assolutamente, io credo che moltissimi altri nelle mie stesse condizioni faranno la stessa cosa. È ora di dire basta. Partendo dai sindaci, che siamo sempre negli argini, siamo sempre in riva al fiume, siamo sempre pronti per essere portati via, se riusciamo a salvarci. Quanti ne siete? Quanti ne siete? Quanti ne siete che ha sentito? Quanti ne siete che ha sentito, sindaco? Allora, guardi, il sindaco di Forne sicuramente l'avete già sentito. Sì. Ma io ho partecipato a una riunione a Tramazza dove c'erano 60 sindaci, dove la parola d'ordine è stata semplicemente questa: rompere il patto di stabilità. Poi dalle parole bisogna passare ai fatti, naturalmente. Grazie sindaco Carta per essere stato con noi, credo che torneremo a sentirla. Allora noi passiamo a parlare della terra dei fuochi. Vi abbiamo detto che oggi è stato approvato il decreto, avete sentito la cronaca, ma noi stiamo dedicando un approfondimento quotidiano, lo facciamo il martedì, il mercoledì e il giovedì quando non c'è l'inchiesta del nostro Daniele Biacchesi, che abbiamo un po' più, un filo più di spazio. La settimana scorsa abbiamo parlato dell'acqua, questa settimana parliamo della terra e parliamo in particolare dell'agricoltura. Sono ritrovato giusto l'altro ieri ad un convegno l'ennesima giornalista svedese, stavolta e non delle Iene, che mi ha portato in piena conferenza un cavolo che è stato colto su una discarica e mi è venuto a chiedere: posso, ma voi permettete di fare questo, posso mangiare questo cavolo? A parlare è Antonio Marfella, tossicologo, oncologo dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli, una delle persone che ha lavorato più intensamente a fondo sulla situazione sanitaria nella cosiddetta terra dei fuochi. Già, quel cavolo si può mangiare? Cosa c'è in quella terra e dove? Sotto quali appezzamenti di terreno esattamente sono sepolti i rifiuti? E quali di questi appezzamenti sono coltivati a frutta e ortaggi? Sembra incredibile, ma è l'Italia. Ancora oggi non lo sappiamo. Così può accadere che un'azienda del nord consideri un valore aggiunto, lo sapete, ve lo abbiamo raccontato, il comunicare ai propri consumatori che i suoi pomodori sono di origine prevalentemente piacentina e che, fuori dalle facce offese di rito, in realtà i consumatori ne siano contenti. Ci sono milioni di tonnellate di rifiuti tossici e scarti industriali sepolti nella cosiddetta terra dei fuochi, ma non c'è una mappa, è quello che il governo vorrebbe fare con il decreto varato oggi. Raffaele Del Giudice, a capo della SIA, la municipalizzata napoletana incaricata della gestione dei rifiuti, è stato per anni alla guida di Legambiente. Non vuol dire che tutta l'agricoltura è distrutta, perché ultimamente sta correndo quest'altro fattoide dove gli ambientalisti, quando denunciano, è perché sono nemici dell'agricoltura. Nulla di più falso, ma ci sono alcune zone, alcune aree che devono essere indagate. Bisogna capire i livelli di inquinanti dove sono arrivati, se c'è da chiudere un campo si chiude per restituire un'operazione di sicurezza anche su quei territori, sia ai contadini sia ai consumatori. Insomma, il punto è chiaro: se non sai che il terreno dal quale proviene il prodotto è pulito, lo compri? No. Il calo delle vendite nell'ultimo mese, da quando cioè i riflettori si sono riaccesi sulla zona, è stato del 40%, sia in Italia che all'estero. Alcune aziende, come per esempio il consorzio della Bufala Campana, hanno deciso di fare una sorta di autocertificazione dei propri terreni, proprio perché non se ne poteva più. La Regione e l'Università Federico II hanno avviato una serie di controlli a tappeto. Riuscire a mettere in evidenza che solo piccole porzioni del territorio sono inquinate, vanno chiuse, trasformate in agricoltura no food, è come contrattare quello di far emergere l'agricoltura di qualità. Mentre il fatto di non avere una mappa, spiega ancora Marfella, danneggia non solo la Campania. Finché noi non siamo in grado di far venire qualunque giornalista del mondo e di impedirgli di raccogliere cavoli e pomodori coltivate su notissime, chiarissime, certificatissime, documentatissime discariche di rifiuti tossici non a norma, è evidente che noi danneggeremo tutto l'agroalimentare campano, che per il 99% è perfettamente indenne, e tutto l'agroalimentare italiano, perché se questi vengono dalla Svezia, cosa volete che ne sappiano se la Resit sta a Giugliano o sta in Lombardia? Così Marfella, ci torniamo domani naturalmente sulla terra dei fuochi, adesso ci prendiamo una pausa e ci troviamo subito dopo, parliamo invece dei dati OCSE-PISA sulla situazione delle scuole in Italia, dei nostri studenti, che cosa sanno e che cosa non sanno e anche di questa pazzesca differenza tra nord e sud, a tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Benefici per chi è in affitto e maggiori controlli per evitare i falsi poveri. Cambia l'ISEE, l'indicatore della situazione economica. Si ridefinisce la platea di chi ha diritto alle prestazioni e di chi no, dice Giovannini. L'esecutivo oggi ha anche approvato il decreto sulla terra dei fuochi. Sarà reato bruciare i rifiuti. Al via una mappatura delle zone dove non ci potranno essere produzioni agricole. Legge elettorale, la Corte Costituzionale è orientata a dare più tempo ai partiti. Si va verso un rinvio della sentenza sul Porcellum a gennaio. Crisi Napolitano chiede un cambio di rotta all'Unione Europea, un impegno nuovo per promuovere crescita e occupazione. Indagine su Totalerg e perquisizioni a Genova, Milano e Roma. Si sospetta un'evasione da 900 milioni di euro. Appena arrivata la notizia che è indagato l'amministratore delegato dell'Erg, Alessandro Garrone, contestato il reato di frode fiscale. E adesso noi ci vogliamo occupare della nostra scuola, delle condizioni nella quale è, della condizione nella quale soprattutto sono i nostri studenti. Maria Piera Ceci, ogni anno, come ogni anno, i risultati del test OCSE PISA, che cosa esce? Ogni tre anni, sì. E esce che intanto miglioriamo molto. Intanto, vabbè, iniziamo le buone notizie, così sì, almeno ci tiriamo un po' su. Miglioriamo costantemente, ma miglioriamo. Restando però al di sotto della media OCSE. Abbiamo in collegamento un ospite, Paolo Sestito, che è il presidente dell'Invalsi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, l'Invalsi monitora i nostri studenti con un sistema di rilevazione che è diverso da quello dell'OCSE, però insomma in qualche modo si vanno a sovrapporre i risultati e quindi volentieri ne parliamo con lei. Oggi sono stati presentati questi dati, andiamo a bomba subito sulla bestia nera della scuola italiana che è la matematica. Un ragazzo su quattro all'incirca, avete raccontato questa mattina nella sede del MIUR, non raggiunge le competenze minime, cioè non è in grado sostanzialmente di risolvere anche nella vita reale dei problemi molto semplici che servono anche nella vita quotidiana. Sestito, non ce la facciamo proprio con questa matematica? Questo diciamo è uno dei dati più preoccupanti. Aggiungerei che questo dato è ancora più elevato nelle regioni meridionali, perché a livello nazionale 1 su 4, nel mezzogiorno si sale a un po' più di 1 su 3. Quindi è lì soprattutto che è concentrato questo fenomeno dei ragazzi che sono poveri di conoscenze, cioè non sono in grado di utilizzare gli strumenti matematici nella vita quotidiana, diciamo, sono in grado solo di rispondere a domande molto semplici utilizzando informazioni che vengono loro date, ma non utilizzare altrove. E questo è un problema perché insomma davvero servono anche nella vita quotidiana, e se pensiamo che invece praticamente tutti i paesi orientali da questo punto di vista ci fanno mangiare la polvere, se pensiamo che a Shanghai il dato che per noi è il 25% invece si abbassa al 4%, cioè esatto, soltanto esatto. Il 4% dei quindicenni, perché stiamo parlando di una rilevazione fatta sui quindicenni, non raggiunge le competenze minime. Davvero dobbiamo riconquistare, dobbiamo ragionarci su questo, lo stiamo già facendo da anni ma i risultati non arrivano. I risultati, diciamo, l'Italia sostanzialmente nel 2012 rimane sotto la media OCSE, conferma anche quei segnali di miglioramento che c'erano stati tra 2006 e 2009, purtroppo non va ulteriormente avanti, quindi certo. È come se un piccolo scalino fosse stato superato, ma ancora ne rimangono molti altri da da affrontare e superare. Ecco, poi c'è anche il gap che è interessante, un altro gap che non si riesce a colmare è quello fra maschi e femmine. Alle ragazze la matematica non piace e ai ragazzi non piace invece leggere, e quindi c'è un dato che... Rispetto agli altri paesi direi che è abbastanza simile il risultato per la lettura, quindi è un problema più universale, generale. Generalizzato, mentre il gap delle ragazze nella matematica è in Italia, è anche questo abbastanza diffuso, ma in Italia è più ampio. Soprattutto più nostro. E come si può intervenire su questo? Perché insomma non è mica detto che le ragazze siano meno dotate, no? In matematica. Assolutamente no, diciamo c'è anche un problema di autoconvincimento, quindi nell'indagine PISA poi ci sono anche dei quesiti che chiedono quanto una certa materia, una certa attività dia stress alle persone, e purtroppo qui le ragazze italiane sono quelle abbiamo che appunto poca autostima, c'è una mancanza un po' di autostima, di confidenza nel poter affrontare certe cose, e quindi è molto un aspetto da questo punto di vista culturale certo che va cambiato. Simone, un altro dato simpatico, ne parlavamo poc'anzi, è sì, che non andiamo neanche a scuola, insomma saltiamo spesso la scuola rispetto agli altri paesi. Mettiamola così, nel senso che questi aspetti un po' chiamiamoli di clima disciplinare, ma disciplinare in senso lato significa l'andare a scuola, il fatto che le lezioni inizino in orario, che non ci siano interruzioni nella didattica e via, è una caratteristica che purtroppo in Italia è ancora poco, come dire, abbiamo dei dati non buoni, però miglioriamo anche qui rispetto al passato. La scuola come un hobby, quasi. Un po' più, siamo progressivamente un po' più disciplinati. Allora, io vi ringrazio. Ringrazio la nostra Maria Piera Ceci, che con la sua penna rossa mi ha corretto. L'indagine OCSE PISA è triennale, non annuale, come ho detto fin dall'inizio. In realtà, grazie a Paolo Sestito, presidente dell'Invalsi, per essere stato con noi. Ci fermiamo, c'è la viabilità. Poi naturalmente i titoli e come sempre ci ritroviamo con Platero. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Maggiori controlli per evitare i falsi poveri, cambia l'ISE, l'indicatore della situazione economica. L'esecutivo approva il decreto sulla terra dei fuochi, sarà reato bruciare i rifiuti. Legge elettorale, la Corte Costituzionale verso un rinvio della sentenza sul Porcellum a gennaio. Il Parlamento ucraino ha votato la fiducia al governo, mentre i manifestanti che vogliono l'accordo con Bruxelles restano in piazza. È il momento di America 24 e di Mario Platero. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington. Mario Platero, sono nella capitale americana perché il nostro ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni è in visita a Washington. Oggi tornerà a New York e vedrà gli investitori. Ha partecipato Saccomanni anche alle riunioni del Council for United States and Italy. C'è stato un incontro a porte chiuse ieri sera in ambasciata d'Italia, ospiti dell'ambasciatore Claudio Bisognero. Ecco, la missione di Saccomanni giunge in un momento particolarmente delicato, in un momento in cui i mercati americani, ma in generale i mercati internazionali e globali, si interrogano su cosa sta capitando nel nostro paese. C'è un partito, il PDL, che si è spaccato, ci saranno elezioni per la nuova segreteria del PD. Ecco, che tipo di stabilità ha il nostro governo? Saccomanni ha risposto in un'intervista con la Bloomberg TV, sentiamolo. I'm confident that if Italy continues to pursue the prudent macroeconomic policies that have been followed for the last two years, and if we make progress in the field of... Sono fiducioso che se l'Italia continua a perseguire le politiche macroeconomiche prudenti degli ultimi due anni, se si faranno dei progressi nel campo delle riforme strutturali, beh, i segnali di ripresa cominceranno a farsi vedere. Inoltre Saccomanni dice che probabilmente l'Italia sta facendo meglio di quello che alcuni analisti si aspettano, perché stanno sottostimando l'impatto di alcuni cambiamenti che sono stati introdotti e saranno introdotti nell'economia. Ecco, la cosa che mi ha colpito di più di questa visita di Saccomanni in America è che è arrivato a Washington con un doppio mandato, non soltanto quello del tecnico economico, ma soprattutto quello del rappresentante politico del governo, tanto che al di là di quello che ha detto Bloomberg abbiamo saputo che il suo primo messaggio negli incontri con gli investitori riguarda proprio la tenuta del governo. E Saccomanni sostiene, quando incontra gli investitori, pensate che ne vedrà una cinquantina tra Washington e New York tra ieri e oggi, ieri ha avuto una colazione con un gruppo di investitori, sono investitori che, attenzione, non sono tanto interessati alle privatizzazioni, non è un roadshow sulle privatizzazioni, sono investitori finanziari, sono investitori del private equity che possono essere interessati a prendere delle partecipazioni in aziende italiane, sono investitori che hanno interesse ad acquistare titoli a reddito fisso, che sono interessati a investire in borsa, e dunque a maggior ragione, visto che hanno un impegno di investimento di medio-lungo termine, di investimento diretto nel nostro paese, debbono essere garantiti. E la risposta di Saccomanni, e questa è una risposta importante anche dal punto di vista della politica interna italiana, perché dice la maggioranza sarà forse ridotta alla luce degli ultimi sviluppi, però sarà una coalizione più compatta e questo migliorerà l'efficacia dell'azione governativa. Il secondo elemento di incertezza, beh, insomma, è figlio del primo, proprio per la percezione di questa debolezza di fondo del governo Letta in questo momento, e riguarda la capacità di portare a termine le riforme promesse. Però anche su questo Saccomanni ha giocato al rilancio. Structural reforms, of which if you want I can provide some indication, then the process of recovery will take hold, and I think we can probably perform better than some analysts have anticipated. Le riforme le abbiamo fatte, dice Saccomanni, guardate alle pensioni, continueremo a farle, il periodo di incertezza politica è finito. Ha detto Saccomanni quando appunto gli è stato chiesto di dare un po' il polso della situazione degli umori romani. Dice: c'è stato un po' di rumore così proveniente dal settore politico, ma non credo che ci sia nessuna ragione fondamentale per aspettarsi fattori determinanti di instabilità in gioco. Dalla fine di dicembre dell'anno scorso fino a maggio questo governo, cioè il governo di Enrico Letta di cui fa parte, è stato formato, c'era una forte incertezza, non c'era una maggioranza chiara, ma ora la situazione è migliorata, c'è un team di governo molto unito, fortemente impegnato, cosa che ha già raccolto una reazione positiva sui mercati finanziari. Insomma, Saccomanni cerca di portare ottimismo, devo dire la sua non è una missione facile, perché gli americani sanno esattamente quello che succede nel nostro paese, sono attentissimi nello specifico, per esempio parla del target numerico di 32 miliardi di euro di riduzione della spesa pubblica entro il 2016, questo secondo il ministro corrisponde a 2 punti percentuali del PIL, avrà un impatto positivo sulla finanza pubblica, ricorda che ci sono state le riduzioni delle tasse, c'è un piano per ridurre i tempi per la giustizia civile, insomma è questo mix che si tradurrà in un aumento della crescita che sarà già visibile alla fine del quarto trimestre e che secondo lui gli analisti non tengono abbastanza in considerazione. Ecco, devo dire, lo sforzo di Saccomanni è ammirevole, perché ho notato fra gli investitori americani una certa dose di resistenza, una certa dose di realismo. Saccomanni ha parlato di privatizzazioni, di introiti attesi per 10-12 miliardi di euro che saranno destinati principalmente a ricapitalizzare la cassa depositi e prestiti, la parte residua andrà al debito pubblico. Ecco, e questa secondo me è un po' una contraddizione, perché inizialmente le privatizzazioni dovevano portare denaro soprattutto all'abbattimento del debito pubblico, queste cose gli americani se le ricordano, ne prendono nota, ma devo dire il ministro ha trovato molta comprensione, le acque della macroeconomia sono difficili, quando in qualche modo è tornato a casa, perché si è incontrato alla Federal Reserve, alla banca centrale americana, con il presidente Ben Bernanke, con Janet Yellen che sarà il successore di Bernanke alla guida della Fed, con il segretario al tesoro Jack Lew. Ecco, con loro c'è stata direi una sintonia di vedute, forse anche perché fra economisti, fra macroeconomisti, fra tecnici prestati alla politica ci si intende e magari si simpatizza pensando alle difficoltà quotidiane del lavoro.